GR Sport. Buongiorno da Dario Ricci. Regala spettacolo la cronoscalata del Giro d'Italia che porta la carovana rosa a Plan de Corones. Alla fine trionfa Franco Pellizzotti, che precede di 6 secondi Sella e di 17 Simoni. Quarto lo spagnolo Contador, sempre più maglia rosa. Ma sentiamo Pellizzotti. Una soddisfazione grandissima per me, che dà un senso anche in più a questo giro. Dopo i 4 giorni in maglia rosa, vincere una tappa così importante per questo giro e per me, quindi non mi aspetto altro, e adesso comunque il giro continua e ci aspettano altri tapponi. Oggi riposo, poi le tappe decisive verso Milano. Dopo la cronoscalata di ieri a Plan de Corones, vinta da Franco Pellizzotti, che grazie a questo successo è tornato in classifica, risalendo dal 7° al 5° posto a 2 minuti da Contador, si fanno i conti e si contano i feriti. Alberto Contador sta benissimo, gioca di rimessa con grande lucidità e forza, in salita è coi migliori, a cronometro è il migliore degli scalatori. Riccò perde qualche secondo ed è secondo a 41 secondi, regolare, tosta e medomo Gilberto Simoni, che va a riposo in terza posizione con 1 minuto e 21 secondi di ritardo. Poi Bruseghin a 2 minuti e Pellizzotti a 2.05. Di Luca scivola in sesta posizione a 2.18. Domani si riprende con la 17esima tappa da Sondrio a Locarno per velocisti, ma le attenzioni sono già tutte riposte al gran finale di venerdì, sabato e domenica. Prima il Montepora, sabato il tappone con Gavia, Mortirolo e Aprica, domenica la crono finale. Insomma, oggi il giro riposa, ma non è finito qui. Piragusa Stage, Giro 24, Sole 24 Ore, Sondrio. Per il calcio, ieri festa nel ritiro azzurro di Coverciano per i 31 anni di Luca Toni, bomber dell'Italia che guarda Euro 2008 puntando sul centravanti del Bayern Monaco e su Alex Del Piero. Penso che ci sono altri attaccanti che hanno fatto molto bene, perché anche Borriello ha fatto un gol in meno di Alessandro, poi abbiamo Di Natale, ha fatto un gran campionato, quindi siamo in tanti davanti, è stato un anno molto positivo per tanti, però adesso speriamo di aver tenuto qualche gol per fare questi europei e di fare alla grande questi europei. Uno mi piacerebbe farlo perché bisogna segnare, però l'importante sarebbe vincerlo. Intanto Borriello è già uno dei pezzi pregiati del mercato. Mi piacerebbe rimanere al Genoa per confermare, ecco, tutto quello che ho fatto di buono quest'anno, però se mi dovesse chiamare il Milan sarei altrettanto felice, perché per me sarebbe un grande onore e una grande sfida, una nuova sfida stimolante, e quindi avrei un'altra possibilità per riprovarci in un grandissimo club. E oggi potrebbe essere il giorno buono per il passaggio di Amauri dal Palermo alla Juventus. Il giornale portoghese A Bola intanto dà per certo l'arrivo di Mourinho sulla panchina dell'Inter al posto di Mancini. Con lui arriverebbero anche i centrocampisti Lampard e Deco. In Serie B l'Albino Leffa ha esonerato il tecnico Gustinetti. Sulla panchina orobica siederà ora Armando Madonna, tecnico della Primavera, che guiderà la squadra nei play-off. È Siena la prima finalista del campionato di basket. Ieri sera i toscani hanno battuto Milano 99-76, chiudendo la semifinale sul 3-0. Stasera gara 3 tra Roma e Avellino. La stella di Milano, Danilo Gallinari, a Sky Sport. Abbiamo iniziato un po' così, ed è stato difficile poi farsi degli obiettivi per il futuro. Siamo stati bravi a creare una chimica bellissima, un gruppo secondo me stupendo dentro e fuori dal campo, e siamo cresciuti man mano, abbiamo fatto una bellissima stagione. Chiudiamo col tennis, a Roland Garros domina la pioggia, Federer passa al secondo turno, eliminati al primo Volandri e tra le donne Sara Errani. Vi ricordo l'appuntamento con A Tempo di Sport alle 14, ancora una buona giornata da Dario Ricci.